Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e puntata come già abbiamo raccontato da Parma, dove eravamo venerdì in esterna, puntata in diretta anche per Focus Economia da Vinitaly, come altri programmi di questa radio che si alterneranno in questi giorni della più importante manifestazione del vino che c'è in Italia e soprattutto una delle più importanti a livello mondiale, in particolar modo quando Bordeaux, che è l'altra grande concorrente, non opera. Ieri inaugurata con l'arrivo del Presidente della Repubblica Mattarella, oggi è riparito poco fa dal Presidente del Consiglio invece Matteo Renzi, che ha parlato molto anche di vino, ha avuto un incontro con Jack Ma, che è il numero uno di Alibaba, quindi il grande colosso, il gigante delle vendite online e gigante tra l'altro in cinese, quindi che fa concorrenza anche al dominio americano, ma ha parlato di vino, non solo, chiaramente poi parleremo di altri temi di questa giornata economico-finanziaria e mi riferisco da un lato a quello che sta capitando in borsa a un titolo e a tutto il comparto editoriale. Il titolo ovviamente è Rizzoli Corriere della Sera, dopo l'annuncio fatto a mercati chiusi dell'offerta pubblica da parte di Urbano Cairo. Il titolo guadagna a questo punto il 28,45%, riammesso in quotazione, ha guadagnato subito dal 20% in su. Devo dire che da questo punto di vista tutti i titoli editoriali sono in netto rialzo: Class Editori più 8,20, L'Espresso più 6,40, Mondadori più 6,35 e anche il Sole 24 Ore guadagna il 5,40%. E questo sarà l'altro tema della puntata, assieme a un terzo tema che è il mondo bancario. In che senso? Nel senso che oggi Renzi stesso, arrivando qui a Vinitaly, ha detto che dovrebbe essere la settimana giusta per il piano banche, e sapete di cosa stiamo parlando, cioè deve prendere forma definitiva il cosiddetto fondo di garanzia sulle sofferenze, quello che vedrà dentro dalla presenza della cassa depositi e prestiti, e alle 18, se non vi sono state modifiche negli ultimi minuti, inizierà l'incontro al Ministero dell'Economia con rappresentanti della Banca d'Italia, della Cassa Depositi e Prestiti e i vertici di tutte le grandi banche italiane, delle compagnie di assicurazione e altri investitori istituzionali e privati. Vertice che deve appunto scrivere, da quello che abbiamo capito, nero su bianco i dettagli, le caratteristiche di questo fondo privato che dovrà sostenere, andando a garanzia, gli aumenti di capitale di alcune banche e le cessioni delle sofferenze bancarie, cioè dei crediti inesigibili, per altre banche. Perché a garanzia? Perché se tu hai una garanzia del genere è chiaro che cedere una zavorra come sono le sofferenze, i cosiddetti non performing loans, ti risulta più agevole perché hai una garanzia dietro di te. Senza garanzia dovresti svenderlo, diciamo, svenderlo a un prezzo ancora più basso con la sofferenza. Sono impreciso, prima che me lo scriviate, ma è per farsi comprendere da tutti. E quindi mondo dell'editoria, nel caso specifico Rizzoli Corriere della Sera, è mondo delle banche, e quindi quale tipo di fondo, che caratteristiche avrà questo fondo. Sul fondo bancario, sull'ipotesi, su quello che è uscito in questi giorni sui giornali, si concentrano su questo, dicevo, i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi come sempre anche su Radio Dimensione Suono, la firma del vice direttore Alessandro Praterotti. A chi mi sta scrivendo dove siete: siamo al padiglione 9, non l'ho detto, è vero, nel consorzio del Chianti Classico, padiglione 9, D3, tra D3 e C3. Comunque, Praterotti sul fondo a garanzia delle banche. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. La crisi del sistema bancario italiano potrebbe essere un punto di svolta, anche se le incognite sono sempre le stesse: quale sarà il passo della ripresa economica, quale sarà il passo degli investimenti e della domanda di credito. In realtà sui fronti più caldi delle nostre banche, ovvero lo smaltimento dei crediti in sofferenza e le ricapitalizzazioni, segnali di schiarita sono percepiti non soltanto sul fronte bancario, ma soprattutto su quello della borsa. Infatti oggi il gran rally di tutti i titoli del settore bancario, un rally che è stato superiore e più intenso di quello degli altri paesi europei, fa pensare che questa volta la borsa guarda esattamente al nostro sistema creditizio come all'elemento che se oggi le cose andranno bene nel tentativo di un grande accordo per rilanciare le banche, veramente il nostro sistema potrebbe fare un po' da propellente anche agli altri mercati. Ma che cosa si dovrebbe discutere oggi? La creazione da parte dello stesso sistema bancario, soltanto sotto l'egida del governo, ma senza un coinvolgimento diretto finanziario, di una nuova grande finanziaria, una sorta di SGR, che dovrebbe ricomprare i non performing loans dalle banche che hanno i bilanci più gravati. Ma non soltanto questo, la seconda gamba dell'operazione credito per il nostro governo è quello di favorire un fondo per le ricapitalizzazioni, altro nodo dolente, con i nuovi ratios patrimoniali dell'Europa e soprattutto con la necessità di presentarsi ai clienti e al mercato più solide, le nostre banche devono rafforzare il capitale. Insomma, operazioni non facili, ma che dopo tanti rinvii e dopo tanto tempo perso, finalmente stanno arrivando a compimento, non soltanto per la borsa, è bene ripeterlo, ma soprattutto per quelle migliaia, milioni di clienti delle banche che dopo la bancarotta dell'Etruria hanno cominciato a vivere in un momento di incertezza sulla solidità del sistema. Il sistema è solido, come ha detto il governatore della Banca d'Italia e come hanno detto gli europei, ma per farlo più stabile sicuramente servono questi interventi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, questo commento di Alessandro Platerotti, andiamo agli altri indici, un attimo di pazienza, lo chiedo agli ascoltatori che già scrivono. Milano complessivamente guadagna l'1,22%, Parigi invece lo 0,20%, si capisce che il punto in più è dovuto e si chiama banche. Francoforte più 0,70%, Londra meno 0,20%, le banche appunto l'altro grande protagonista di borsa al di là dei titoli editoriali della Rizzoli, il Banco Popolare più 11%, Monte dei Paschi più 9,35%, UBI Banca più 6,80%, Pop Milano più 6,60%, Pop Emilia Romagna più 4,20%, molto bene anche Prismian, l'ex Pirelli Cavi più 5,70%, Saipem più 5% ed Exor più 3,60%, fa eccezione Unipolsai che perde l'1,60% e Snam che quasi lo 0,80% e poi che è quasi una nemesi visto che siamo in diretta da Vinitri, l'altro titolo che perde Campari meno 1,26%. Brevemente le altre notizie di questa giornata economico-finanziaria. Interessante l'intervista oggi del numero uno della Banca Mondiale, Jim Yong Kim, sul Financial Times, in cui ricorda come le domande da parte di paesi emergenti di prestiti alla Banca Mondiale abbiano toccato il record storico e arriva soprattutto dai paesi che esportano commodity, in primo luogo dai paesi esportatori di petrolio e gas, in estrema difficoltà visto il prezzo del greggio, oggi leggermente per inciso in rialzo a $40 al barile. Quasi 2% di rialzo. Il Brasile si va verso, oggi si vota la Commissione della Camera brasiliana, vota l'impeachment nei confronti della Presidente Dilma Rousseff, ma la cosa interessante è che un sondaggio di uno dei principali istituti di ricerca in Brasile mostra come se le elezioni presidenziali si svolgessero oggi, quelle previste per il 2018, a vincere sarebbe di nuovo Lula. Lula da Silva, nonostante tutto il caos dell'inchiesta, del salvataggio operato dalla Presidente Rousseff, Lula è ancora molto molto popolare in Brasile. L'Unione Europea, passiamo all'Europa, attende i dettagli del programma di stabilità e di riforme per quello che riguarda il governo italiano, prende nota del documento economico-finanziario diffuso nel fine settimana, ma aspetta adesso i dettagli. Ricordo che nel DEF, nel documento economico-finanziario, vengono citati i rischi di una crescita a ribasso, già vista a ribasso perché siamo già calati come previsioni sull'anno all'1,2%, e il governo stesso che lo scrive, sono stime ottimistiche, pesano i rischi di un calo delle esportazioni nei paesi che prima citavamo, paesi emergenti, quelle, insomma, le economie che trainavano fino a pochi anni fa, e pesano i rischi anche per la domanda interna. Ancora nel documento economico finanziario si fa notare che con gli interventi di questi ultimi anni sono stati risparmiati nel periodo 2009-2015 10 miliardi di euro di stipendi per la pubblica amministrazione. Allora, le sofferenze bancarie sono calate, veniamo all'Italia, nel mese di febbraio a 196 miliardi, stiamo parlando delle sofferenze lorde, cioè i prestiti che le banche hanno effettuato che non riusciranno a rivedere indietro con estrema probabilità, sicuramente non nel loro 100%, però rispetto a un anno fa sono di nuovo aumentate, più 5% quasi le sofferenze bancari, il dato non è assolutamente buono, tornano a crescere, questo invece è un buon dato, lo diffonde Banca d'Italia, i prestiti alle famiglie più 1% e leggermente anche alle imprese più 0,3%, stiamo parlando di prestiti chiaramente non per il mutuo. Ancora due notizie, la produzione industriale in Italia a febbraio ha fatto più 1,2% rispetto a febbraio dell'anno scorso, meno 0,6 rispetto a gennaio, trainata soprattutto dall'andamento dei beni strumentali. L'auto è una delle grosse voci che stanno aiutando questa, la produzione industriale ha fatto più 15%. Visto che stiamo parlando di produzione industriale italiana, entriamo subito nel tema di questo Vinitaly. Sappiamo che all'interno del comparto agroalimentare una delle voci più importanti è proprio l'export del settore vitivinicolo. So già dove tutti quanti andrete a parare, cioè il famoso sorpasso italiano nei confronti della Francia. L'Italia è tornata infatti a essere il primo produttore mondiale di vino con 47 milioni di ettolitri prodotti nel 2015, più 12%. Però, attenzione a autoincensarsi troppo, così partiamo subito con la critica. Siamo i primi produttori come volumi, ma la Francia ancora non la vediamo, non dico nemmeno col binocolo, quanto ha valore. Il nostro valore complessivo è di 4 miliardi di euro. Cosa vuol dire questo? Che ci sono ancora margini per mantenere i volumi ma venderli a un prezzo un po' più alto, cioè aumentare il valore. Non basta essere i primi come volumi, nella vita è importante essere i primi come valore. 349-238-6666 per i vostri sms e per WhatsApp, poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Iniziamo a parlare di vino e iniziamo facendolo con le parole anche del Presidente del Consiglio. Sì, perché Renzi ha agganciato i temi della globalizzazione con quelli del mondo del vino. Bisogna cogliere le opportunità che la globalizzazione dà, c'è tanta fame di Italia a livello mondiale. Il vero made in Italy abbia successo e continui a produrre posti di lavoro e ricchezza, anche perché nel mondo, me la fate dire così, c'è tanta fame d'Italia, di prodotti italiani, ma c'è fame d'Italia. E allora, se siamo bravi, la globalizzazione nei prossimi anni vedrà crescere ancora i posti di lavoro qua e vedrà crescere le occasioni di sviluppo del nostro paese. Io sono convinto che il futuro sia un'avventura fantastica da vivere e vi auguro di cuore di poterlo fare con i valori che vi hanno contraddistinto fino ad oggi. Perché oggi Renzi ha fatto un giro che chiaramente ha avuto il suo fulcro nel Vinitaly, ma prima era stato visitare anche lo stabilimento dell'AIA, che è leader italiano nel carni non solo, poi si è recato appunto a Vinitaly e è tornato sul tema della narrazione, meglio che stia zitto, però ha detto Renzi basta dire che la narrazione del paese è tempo perso e basta vedere le aziende che vanno all'estero come se fossero dei traditori. Vi hanno detto per anni che il racconto non serviva a niente, che lo storytelling era stupido, che la narrazione di ciò che noi siamo era tempo perso. Vi hanno raccontato una barzelletta. È come se nella vostra azienda vi dicessero che il direttore commerciale non serve o che il direttore marketing è tempo perso. Se noi non ci raccontiamo insieme come sistema paese, non siamo credibili. Il vino deve andare insieme al turismo, ai prodotti di qualità, alla pasta di un certo tipo, alla qualità dell'esperienza e anche alla qualità della manifattura italiana. Noi abbiamo una gigantesca opportunità, che è quello di raccontare insieme che l'Italia è il paese con il maggior dividendo possibile dalla globalizzazione. Siamo piccoli, sì, 60 milioni di abitanti, Ma la globalizzazione non è un nemico, non è l'ostacolo. La globalizzazione chiede bellezza, la globalizzazione chiede qualità. Se noi smettiamo di considerare che la globalizzazione sia un problema, che le aziende che vanno all'estero sono dei potenziali traditori e che non è giusto fare un certo tipo di marketing, se noi non smettiamo di far questo, non abbiamo chance per il domani. Allora, eccolo qua che scrive Barisoni, servo di Renzi, hai applaudito il tuo ducetto. Vabbè, lei come sempre ha dei problemi, ma spero che non sia Vinitaly. Però il punto non è servo di Renzi, non servo di Renzi, il punto è un altro. Si può essere d'accordo col Presidente del Consiglio che, se vogliamo usare l'immagine, il marketing serve. Noi siamo stati, adesso visto che mi scrivete, cerchiamo di ricordarci anche chi erano i Presidenti del Consiglio prima di Renzi. E diciamo l'immagine che avevamo nell'ultimo governo Berlusconi, no, perché poi me le tirate fuori le cose, l'immagine che questo paese proiettava di sé all'estero dopo l'ultimo governo Berlusconi, ok? Non era di un paese grandemente il risolino che molto abbiamo criticato tra Sarkozy e la Merkel, però era, voglio dire, il segnale di un paese che, non posso usare il termine che vorrei usare, che si stava rovinando un'immagine. Allora, il Presidente del Consiglio può avere anche ragione nel dire, guardate che serve anche il marketing. La critica che noi facciamo delle volte, l'approccio renziano, è che c'è delle volte più marketing che sostanza, e questo non devi stare attento a non finire dalla parte opposta, ma che il marketing è un racconto del paese, un po' diverso, serva a tutti i produttori di questo paese, le aziende di questo paese, non c'è discussione. E ripeto, guardiamo i governi degli ultimi 20 anni e poi facciamo un confronto, ognuno la pensa come vuole. Comunque, la riforma costituzionale, ricordato Renzi, attribuisce allo Stato centrale, non più alle regioni, la promozione del Made in Italy. Cosa ci manca rispetto ai francesi? Promozione internazionale non affidata a 1000 rivoli diversi, a 1000 canali diversi. Sono alle 6:30 in Parlamento perché per la sesta volta, noi non siamo democratici, votiamo solo 6 volte la riforma costituzionale e poi c'è il referendum. Votiamo una riforma costituzionale che attribuisce allo Stato centrale e non alle regioni la promozione turistica e del Made in Italy nel mondo. Non è possibile che si continui ad andare con i singoli uffici regionali che si fanno la singola campagna. Ma cosa ne sanno in Cina o nel Midwest della singola regione? C'è bisogno di un sistema italiano. Perché vi hanno raccontato che la riforma costituzionale riguarda soltanto i senatori o il CNEL. Vero, riguarda anche questo, ma dà finalmente allo Stato centrale questo potere che è sacrosante. Su questo, per esempio, prima di beccarmi gli insulti, io sono d'accordissimo col Presidente del Consiglio, qualunque colore abbia. Le regioni, generalmente, poi qualcuna un po' meglio, hanno fatto dei disastri veri in questi decenni, li abbiamo raccontati anche come sprechi, quando arrivavano a essere sprechi e reati, nella promozione, perché mandare la Regione Marche, la Regione Veneto, la Regione Toscana, la Regione Campania e via così, la Regione Calabria, da sole in Cina fa ridere, in Cina, in India, ma se volete anche in Canada, negli Stati Uniti, fa ridere. Quindi ben venga se il coordinamento lo fa lo Stato e non più le regioni. Voi sapete che questo programma con le regioni è, diciamo, ha un atteggiamento abbastanza critico. Molte volte la lotta ai falsi, all'Italian sounding cosiddetto, che non è il falso, lì Renzi mi ha visto compiuto un po' un'inesattezza. Il falso è un reato, l'Italian sounding è una cosa che assomiglia al cibo italiano perché ha la bandiera, ha il nome simile, ma è prodotta in tantissimi altri paesi, non in Italia. Vale 2 volte quello che esportiamo. Noi esportiamo 30 miliardi, ma ce ne sono 60 fuori di Italian sounding. L'Italia ha più o meno 90 miliardi di mercato potenziale di prodotti Italian sounding, con il nome che suonano italiano. E però avete visto che il dato è molto più basso. L'export è soltanto 36,8 miliardi. Quindi noi abbiamo un margine di miglioramento che è spaziale. Bene l'iniziativa con Alibaba per combattere i falsi. Ci vuole, secondo me, più education a tutti i livelli. Comunicazione, lotta al falso senza pietà, lotta al falso senza pietà e capacità anche in alcuni settori di tenere insieme. Le medie e piccole aziende devono essere capaci di digitalizzarsi il più rapidamente possibile. Oh. e adesso iniziamo a parlare di vino e non solo di Dimitri, fermo restando che poi il vino rientra in questo cappello complessivo, lo facciamo e lo faremo in questi due giorni con vari produttori o esponenti di produttori, di consorzi, di associazioni di categoria, e visto che si diceva prima che il problema del vino italiano non è il volume, i volumi che hanno superato la Francia, ma il valore e la riconoscibilità del delle bottiglie, delle denominazioni, delle regioni, ne parliamo con chi questo problema non ce l'ha, volutamente lo facciamo, da un lato con il presidente del consorzio del Chianti Classico, Sergio Zingarelli, buonasera. Buonasera. Che è anche presidente di Rocca delle Macie, e con chi rappresentano dei nomi, non si offendono gli altri, tanto verranno tutti, più importanti dell'Amarone, del Valpolicella in Italia, e mi riferisco a Marilisa Allegrini dell'omonima azienda. Buonasera anche a lei, dottoressa. Buonasera. Dunque, Amarone, Valpolicella da una parte e Chianti dall'altra, tanti problemi possono avere, ma non quello della riconoscibilità. Vorrei sapere intanto Allegrini come sta andando quest'anno, perché i dati aggregati spiegano ma solo in parte, il volume è fuori discussione, ma sul valore? Beh, allora diciamo che la Valpolicella, grazie all'Amarone, il prezzo medio è sempre piuttosto elevato, per noi come singola azienda. Ci sono dei fatti speculativi, ci sono aziende che hanno cominciato a produrre molto e quindi tirano un po' al ribasso il prezzo dell'Amarone. Quindi abbiamo anche noi questa necessità di riqualificare la produzione e attraverso proprio la valorizzazione del brand. Sì, questo è un tema che affronteremo anche domani con la filiera. Lo dico subito, il rischio qui è che quando un vino va bene, la spiego male ma voglio essere capito, penso all'Amarone, penso al Prosecco che ha fatto dei numeri incredibili in questi anni, poi tutti ci tuffino sopra. Certo. In una visione poco di lungo periodo, molto di breve, tutti aumentano la produzione di quella cosa lì, poi non si capisce più perché i prezzi variano da 3 euro a 300, non capisci più cosa stai comprando e bevendo, ed è una cosa che poi inflaziona il singolo vino e non paga mai nel medio termine. Ma io volevo capire con lei, Allegrini, come azienda Allegrini, dove avete avuto i mercati più dinamici nel 2015, nell'anno che si è appena chiuso, ma anche nei primi tre mesi del 2016? Allora, diciamo che si sono consolidati i mercati europei, Germania in primis, i paesi scandinavi, gli Stati Uniti e il Giappone. Per noi questi sono stati i risultati migliori. E l'inizio dell'anno è molto buono, vediamo anche una buona ripresa nel mercato interno. E questo insomma ci fa sperare. Anche nel mercato interno, sì, questa è l'altra domanda interno. Che avevo per tutti e due. I numeri li ricordavo molto velocemente, da un lato appunto questo aver raggiunto il primo posto con la Francia, 47 milioni di ettolitri, aver superato la Francia, scusatemi. Noi produciamo come italiani un quarto di tutto il vino europeo e un quinto di tutto il vino mondiale, quindi una bottiglia su cinque, diciamo che qualcuno beve nel mondo, è italiana. Il fatturato è ancora un po' basso, ecco perché citavo i 9 miliardi e 700 milioni, anche se è in aumento rispetto al 2015, al 2014 del 3%. Il record l'ha fatto invece l'export, 5 miliardi e mezzo nel 2015, più 5%, in volume vuol dire 20 milioni di ettolitri. Questa scheda vi racconta poi i casi di eccellenza proprio nelle esportazioni e nel mercato interno. Il vino italiano continua a piacere e a crescere oltre confine. L'anno scorso l'aumento del 4,8% del fatturato dei maggiori produttori italiani è stato sostenuto dall'export, più 6,5%, e dagli spumanti, che hanno venduto all'estero il 15,2% in più. Secondo i dati diffusi dall'area studi Mediobanca, l'industria italiana del vino mostra segnali di tenuta anche sul mercato interno, più 3,1%. L'occupazione è salita del 2,4% e gli investimenti hanno registrato un rialzo del 18%. A livello geografico spicca la forte espansione del mercato nordamericano, più 13,3%, con un peso del 34% sull'export totale. Al contrario, l'Asia arretra del 10%, con una quota che vale appena il 3,9% delle vendite. Anche i dati generali indicano questo andamento. Se con 1,3 miliardi di euro di valore di vino esportato l'Italia ha rafforzato la sua posizione negli Stati Uniti, in Cina invece il nostro paese non ha espresso ancora tutte le sue potenzialità. Secondo i dati Istat, nel 2015 l'Italia ha esportato a Pechino vino per un controvalore di 90 milioni di euro, più 18%, contro il più 60% dei leader francesi, a 814 milioni. Principale sbocco del vino di casa nostra, che esporta nel complesso per 5,4 miliardi, restano i paesi dell'Unione Europea, con il 51,5% dell'export totale. Un'importante novità del 2015 per il settore è rappresentata dalla prima quotazione di due società vinicole italiane, Italian Wine Brands e Masi Agricola. Infine, il vino fa bene al portafoglio. Da gennaio 2001 l'indice di borsa mondiale del settore vinicolo è cresciuto del 450%, moltiplicando di 4,5 volte il suo valore, ben al di sopra delle borse mondiali, che hanno segnato un più modesto progresso dell'86%. Allora sì, farà bene al portafoglio se ci investi il vino, non se lo bevi, perché sono, i prezzi non sono bassissimi, ma l'investimento in vino fa bene. E sicuramente i dati che avete ascoltato dimostrano un settore assolutamente in salute, che non ha mai avuto recessione, ma Zingarelli, dopo il metro, la pubblicità, vorrei una risposta anche su questo. Insomma, cioè, il valore della Francia a livello mondiale è nettamente superiore a quello dell'Italia. Poi va in Cina, non è che ce l'abbia con la Cina, ma i francesi riescono a fare 814 milioni di euro, noi 90. Un decimo, e siamo partiti tutti quanti simili lì, nel senso che la Cina è esplosa 8, 9 anni fa, 10 anni fa c'eravamo già. Ecco perché dico che da sole le regioni non bastavano. Dopo il meteo, la risposta. State ascoltando un programma offerto da Insieme per il vino, alleanza delle cooperative agroalimentari, Federvini, Unione Italiana Vini. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta da Vinitaly, padiglione del stand del Chianti Classico, padiglione 9D3. Volutamente i due produttori che ho di fronte sono diversi in tutto tranne che nella notorietà dei vini che vendono, perché come dimensioni Marilisa Allegrini fattura, se non ricordo male, 30 milioni di euro. Sì. E invece il consorzio del Chianti Classico ha dei numeri pazzeschi, perché sono 35 milioni di bottiglie, mentre Allegrini di bottiglie ne fa 4 milioni e 300 mila. Ho sbagliato? No, giustissimo. Però quello sul consorzio sono tanti produttori. È ovvio, no? È ovvio, questo si capisce. Però volutamente vi abbiamo preso così, diciamo, agli antipodi quasi, per capire invece i punti comuni anche di criticità, perché questa puntata non la facciamo per dire quanto siete bravi, quanto siete belli, quanto siete fotomodelli. Allora, sorpasso francese, molto dal titolo dei giornali, sorpasso sulla Francia, ma non in valore. Numeri imbarazzanti sul valore che facciamo in Cina, 870 milioni francesi, 90 milioni di italiani, e siamo partiti più o meno uguali. Zingarelli. Allora, innanzitutto volevo dire una cosa, che per quanto riguarda il sorpasso all'Italia e alla Francia, ogni anno ci sorpassiamo. Italia e Francia sono i due paesi maggiori produttori al mondo di vino, poi diventa da andamenti climatici se produce più l'Italia o più la Francia, quindi secondo me tutte queste giornalate, perché l'Italia è numero uno, un primo produttore al mondo, probabilmente il prossimo anno forse la Francia si risupererà di nuovo, quindi è un dato abbastanza così soggetto al clima. Per quanto riguarda, per esempio, in America, dove è il paese dove ormai si consuma più vino in assoluto al mondo, non pro capite ma in assoluto, l'Italia da anni che sta sopra, esporta più della Francia, e da anni che anche per valore l'Italia ha superato negli la Francia. Stati Uniti, negli Stati Uniti, che resta un mercato più importante. Che comunque la media del vino venduto in Italia, il prezzo medio è molto più basso della Francia. La Cina, diciamo che probabilmente è l'opposto. La Cina è un mercato che effettivamente l'Italia è messa abbastanza male, l'Italia vitivinicola, non ci supera solamente la Francia ma almeno altri 5 paesi, e questo è un punto veramente di debolezza. Noi come consorzio e come aziende siamo andati già a fare delle attività in Cina, però ci siamo accorti di fare veramente di una piccola attività e i risultati sono stati praticamente zero. Allora, diciamola tutta però, per andare in certi mercati, quindi negli Stati Uniti noi abbiamo avuto il grande vantaggio della ristorazione, perché voi siete bravi, ma senza la ristorazione italiana e senza il crollo della ristorazione francese, diciamocela tutta, per cui ormai i ristoranti francesi sono quasi di nicchia, mentre il cibo italiano viene venduto anche in ristoranti non italiani in tutto campo, però con bottiglie a quel punto italiane. Senza quella roba lì non stavamo a raccontare il grande successo del vino degli ultimi 20 anni. In Cina c'è un piccolo problema, Zingarelli. Lì i francesi ci sono con Carrefour e Auchan. Hanno, non mi ricordo quanti centinaia, perché non vorrei dire il numero non esatto, vado a memoria sulle 300, ma dovrebbero essere di più, punti vendita dove, secondo me, dentro un supermercato Carrefour o Auchan tendi a trovare Camembert, Caprice Didier e vino francese, o sbaglio? Esatto. Infatti loro hanno questo grosso vantaggio del controllo della grande distribuzione. Sono assolutamente d'accordo che l'Italia del mondo del vino deve ringraziare la ristorazione al mondo, che è quella che ha fatto l'ambasciatrice al vino italiano. Però mettiamo anche che le persone sono riuscite tramite i ristoratori italiani a scoprire la qualità, l'alta qualità del vino italiano. Purtroppo in Cina la situazione è molto diversa. Sicuramente bisogna fare qualcosa, bisogna fare sistema. So che molti consorzi stanno andando in Cina, effettivamente sono andate anche delle delegazioni regionali che francamente non so cosa possa portare, ma io sono d'accordissimo. Può aver ragione ogni tanto Renzi, lo dico agli ascoltatori, ha detto una cosa giusta prima. Per alcuni paesi sicuramente sì, per altri paesi probabilmente già maturi, come per esempio i due mercati nordamericani, ricordiamoci anche il Canada è un mercato di grande crescita. Sì. Soprattutto il vino italiano, e siamo in crescita anche in Quebec, che è una provincia sicuramente più legata alla Francia che all'Italia, dove l'Italia sta raggiungendo la Francia, come vino parlo sempre. Allora, dopo il traffico, però andiamo all'ultimo tema, perché quando Marilisa Allegrini e poi chiaramente Sergio Zingarelli parliamo di mercati distanti, è vero che hanno rallentato sia Brasile, in Brasile in recessione, che la Cina, però nel futuro, beh, lì le dimensioni contro. Allora, le dimensioni non vuol dire avere un'azienda grande, perché ci sono aziende appunto come la sua che producono per la parte della fascia alta, però uno può raggiungere il problema dimensionale anche aggregandosi, anche facendo campagne, iniziative comuni di sbarco su certi mercati, parlo del marketing, della pubblicità e di quant'altro, oppure può utilizzare l'attività dei consorzi. Vorrei capire però come se ne esce, mentre prima del traffico un commento lo faccio io al Vinitaly, che ha toccato dei numeri da record, è il 50esima edizione del Vinitaly, è questa, quindi 50 anni che esiste questa manifestazione, 4.100 espositori, 141 paesi di provenienza, da 55.000 operatori in questi giorni, 1.000 buyer e 100.000 metri quadri di superficie espositiva, con per la prima volta anche le aziende cinesi, produttrici in questo caso, che si presentano a Vinitaly. Una critica la devo fare però alla logistica di Verona e del Vinitaly, perché dopo 16 anni che facciamo le dirette dal Vinitaly non è cambiato nulla. Ore, non dico due ore, ma quasi per arrivare in fiera la mattina, traffico bloccato, adesso finiremo la diretta, ci metteremo altre due ore per arrivare in centro a Verona. Caro sindaco Tosi, caro direttore della fiera Gianni Mantovani, insomma, si riesce nel 2016 a trovare un modo per cui modifichiamo la viabilità per 3-4 giorni, la gente non impazzisce e sta due ore, anche perché questi lavorano, a differenza del sottoscritto, quando finiscono la diretta devono andare a una cena con i produttori, con i buyers, con gli agenti, per cui si riesce a cambiare la viabilità. Fuori è il Vietnam. Traffico. Focus Economia. No, questo ascoltatore è un mito, perché io capisco non amare Renzi, ma dice il traffico è colpa di Renzi. Vabbè, meno male che non piove, se no sappiamo già che era il governo a essere ladro. No, è colpa dell'amministrazione di Verona e della fiera, non ho dubbi su questo, mi sono rotto le scatole di essere diplomatico. Marilisa Allegrini, come si supera il problema delle dimensioni se non hai i fatturati, non hai la grande distribuzione che hanno i francesi e non hai nemmeno la ristorazione che ci ha aiutato in maniera fondamentale negli Stati Uniti, in Canada e in altri paesi? Come potete andare in certi mercati promettenti ma lontani senza queste gambe d'appoggio? Beh, allora dobbiamo dire che per radicarci o per andare ad esplorare determinati mercati, io credo che tutte le aziende abbiano destinato delle risorse incredibili, raggiungendo dei risultati, se vogliamo dire, abbastanza limitati. E cosa ci dice questo? Ci dice che le aziende devono veramente fare sistema, e devono fare sistema a volte anche a livello di singole aziende. E noi come Allegrini l'abbiamo fatto attraverso questa associazione che abbiamo con le famiglie della Marone. Le famiglie della Marone con questi 12 Italian Wine Signature. E anche Italian Signature Wines Academy, e con queste aziende pensiamo di andare proprio ad affrontare sono questi aziende nuovi di diversi mercati. Punti del paese questi. Sono Piemonte, Toscana, aziende che hanno quantità e anche qualità. E dunque insieme andiamo ad affrontare per esempio i mercati del duty free, e andiamo a Vinexpo, siamo stati a Provine insieme, andiamo a Vinexpo a Hong proposito Kong. Di traffico che funziona e taxi che ci sono, perché se volete prendere un taxi fuori da Vinitaly alle 18.30 state sui 40 minuti in attesa. Provine a Düsseldorf, tutti ci raccontano sempre che la situazione è migliore. Tu hai avuto è migliore, un'esperienza ma diversa. Anche Hong comunque, Kong non è ideale. La risposta vostra è stata: mettiamo assieme, la dico male, le nostre energie, vari marchi, vari produttori che hanno caratteristiche analoghe, voi sul fronte della qualità, del mercato, della fascia di gamma, Piemonte, Veneto, Toscana e quant'altro, e andiamo con quella roba lì a fare, sì, andare sui mercati. Aziende che hanno omogeneità, ecco. Che hanno omogeneità nella fascia che voi rappresentate. Questa Zingarelli è una ipotesi. Le dimensioni non se le può dare, o perché si mette assieme tra persone uguali anche di varie regioni, o perché fa acquisizioni, compra aziende e cresce di fatturato, oppure perché fa il consorzio. So già che lei mi dirà che la terza. No, vabbè, io non sono solamente presidente del consorzio, c'è anche la mia azienda familiare, che è un'azienda che fattura circa 21 milioni di euro. Quindi anche come azienda, come Rocca MC, siamo andati in Cina diverse volte. Adesso parliamo solamente della Cina, però parliamo di altri paesi BRIC, per esempio il Brasile. Brasile, grazie a degli importatori e grazie a molte aziende che sono andate in Brasile, grazie anche alla ristorazione italiana in Brasile, il vino italiano in Brasile sta andando piuttosto bene. Adesso sta purtroppo vivendo un problema politico e economico molto, molto importante. Recessione. Per quanto riguarda la Cina, l'esperienza mia personale sia come azienda che come consorzio è che in Cina non sanno neanche che in Italia si produce vino e non sanno che l'Italia è uno dei maggiori produttori di vino. Questa è la prima cosa, quindi bisogna iniziare a fare della formazione e dell'informazione. La formazione e l'informazione vanno bene questi consorzi all'export, vanno bene i consorzi di tutela, però secondo me lo Stato qui ci deve dare una mano, deve andare a investire forte e iniziare a dire, a diffondere che l'Italia è uno dei paesi maggiori produttori di vino, dove si producono dei grandi vini, insieme alla moda, alle macchine e altri prodotti italiani c'è anche il vino. E al Legno Arredo, visto che proprio domani, se non ricordo male, parte il Salone del Mobile di Milano in concomitanza, sono due momenti epocali, lo dico senza esagerare, nell'arco dell'anno per la rappresentazione di due settori chiave, appunto mondo vitivinicolo e Legno Arredo, quindi Salone del Mobile, dove lì fai da apripista anche per gli altri, perché se tu hai un Legno Arredo fatto di qualità, con valore aggiunto, con competenze specifiche, crei un vantaggio a tutto il Made in Italy, e così per il vino crei un vantaggio a tutto il settore alimentare. Avendo un minuto e mezzo scarso, chiedo a Marilisa Allegrini e poi a lei, Sergio Zingarelli, il mercato interno. Ne parliamo poco perché ormai voi siete quasi rassegnati, lei esporta l'80% della produzione. Quasi 90%. Per cui figurati, siete producete in Italia, ma l'Italia vi interessa poco. No, sto scherzando! Non posso avere polemiche a due minuti dalla fine. Il mercato interno, Allegrini. Il mercato interno sta dando segni di ripresa per tutta la denominazione, perché abbiamo questo vino, l'Amarone, ma c'è anche il Valpolicella, che è un vino molto apprezzato perché ha queste caratteristiche di freschezza e di sapidità e anche di facilità di beva. Il mercato interno, Zingarelli, per il Chianti Classico? Per il Chianti Classico e per la mia azienda è in crescita da circa 10 mesi. Il Chianti Classico, diciamo, ha vissuto dei momenti abbastanza complicati in Italia, tant'è vero dal 40% è passato al 20%. Oggi siamo in leggera crescita, anche se l'estero sta crescendo ancora un po' di più. Allora, una cosa la voglio dire prima di concludere e nel ringraziare chiaramente Marilisa Allegrini e Sergio Zingarelli, poi dopo parliamo di Rizzoli, Corriere della Sera, più 30% quasi in borsa, e del Fondo Garanzia delle Banche. 30 anni fa scoppiava lo scandalo del metanolo, che è la dimostrazione di come una crisi epocale distruttiva possa rigenerare la qualità, perché vi siete messi a produrre vino buono dopo lo scandalo del metanolo. Questo lo dico ai ragazzi, non disperate, le crisi possono essere anche salutari se ben gestite. Grazie ancora, GR24. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Anche questa settimana storie complesse e controverse a Il Falco e il Gabbiano. ha portato l'allenatore verso un ruolo fondamentale nel calcio, il mago Elenio Herrera. La prima first lady cinese, una delle donne più importanti e influenti del Novecento, Mei Lingzhong. Da Superman a Superuomo, la terribile e meravigliosa storia di Christopher Reeve. La prima donna che trasferì la violenza subita sulle sue tele, Artemisia Gentileschi. L'uomo che fece della sua voce uno strumento musicale, Demetrio Stratos. Vi aspetto tutti i giorni alle 15.30, Il Falco e il Gabbiano. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Tutti i giorni, dalle 14 alle 15.30, il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati. Tutti convocati, sempre. un'ora e mezza, 90 minuti, il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo. Sempre su Radio 24, la passione si sente. E a tutti i convocati weekend ci sono anch'io, sono Giovanni Capuano, vi aspetto ogni domenica alle 17. State ascoltando un programma offerto da... Insieme per il vino. Confagricoltura, CIA Agricoltori Italiani, Federdoc, Assoenologi. Focus Economia. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, sempre qui dal padiglione 9 D3 del Vinitri di Verona. Adesso non parliamo più di vino, ma degli altri due temi della giornata, che sono praticamente anche i temi della giornata borsistica, ossia banche da un lato e l'incontro tra i vertici delle banche, delle assicurazioni, delle fondazioni al Ministero dell'Economia, era previsto iniziare da pochi minuti, alle 18, e dall'altro invece l'operazione Rizzoli Corriere della Sera, perché venerdì scorso a mercati chiusi Cairo Communication ha lanciato un'offerta pubblica di scambio sulla totalità, e l'offerta è volontaria, sulla totalità delle azioni della Rizzoli Corriere della Sera, praticamente 0,12 azioni Cairo con una valorizzazione di circa 0,55 euro per ogni azione RCS e 0,12 azioni Cairo. La cosa importante da dire è che il titolo RCS a quel punto viene valutato sui 55 centesimi e infatti oggi ha guadagnato il 29% e ha chiuso a 58 centesimi di euro, quindi vicino, leggermente sopra il livello dello scambio con Cairo. Ha trascinato con sé tutto il settore editoriale, l'Espresso, il gruppo L'Espresso più 6,40%. Devo dire che anche Classe Editori più 9% e il Sole 24 Ore ha guadagnato il 5,23%. L'altro grosso settore, diciamo, le banche, per l'incontro previsto dal governo alle 18, Banco Popolare più 10%, Monte dei Paschi più 9,80%, UbiBanca più 7%. E Popolare Emilia Romagna più 4,80%. Il collegamento con Radio Corriere sulle 24 ore sarà estremamente breve, perché questi sono i due temi importanti e li affronteremo a parte. Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Al di là di Rizzoli e delle banche, concentriamoci però sulla Popolare Emilia Romagna, perché lì ci potrebbe essere dell'altro e con l'interessamento di Unipol. Sì, secondo appunto quanto ha riportato ieri il Sole 24 Ore, Unipol 6 sarebbe interessata a entrare nella Popolare dell'Emilia Romagna con una quota tra il 2 e il 5%, anche per mettere, come dire, in sicurezza il suo accordo sulla vendita di prodotti di banca assurance, di banca assicurazione. Alla notizia, oggi il titolo ha reagito positivamente, B per più 4,84%, mentre per Unipol 6 c'è stata una flessione dell'1,54%, anche se nelle sale operative si osservava come potenzialmente questo eventuale ingresso potrebbe essere positivo anche per la compagnia assicurativa, perché potrebbe trovare, come dire, una soluzione per la sua Unipol Banca, che da tempo attende di trovare un compratore o una qualche forma di integrazione. E poi bene, al di fuori delle banche e dell'editoria, oddio, Mediaset fa parte editoriale, però il 2,60% di Mediaset riguarda in realtà l'uscita di Premium dal perimetro. Dopo gli accordi con Vivendi, Mediaset sì. Premium esce dal perimetro di Mediaset e oggi in molti si esercitavano a pensare a cosa succederà a Mediaset e in particolare si scommette sul fatto che senza questa voce, che per Mediaset comunque rappresentava una perdita, potrebbe crescere in modo significativo il dividendo. Alcuni analisti si spingevano addirittura a pensare a un dividendo in prospettiva di 0,2 euro per azione rispetto ai 2 centesimi che ha pagato. Che pagherà quest'anno. Ancora ultimo titolo che vorrei commentare con te, Prysmian, l'ex Pirelli Cavi, proprio perché non rientra, diciamo, nelle due grandi categorie, più 6%. Sì, l'ex Pirelli Cavi, fra le altre cose, fa anche dei cavi per la fibra ottica e questo attivismo che si è verificato in Italia in queste ultime settimane rispetto alla fibra ottica fa pensare che anche Prysmian possa beneficiare di questo aspetto. I cavi per le telecomunicazioni rappresentano circa il 20% della marginalità lorda di Prysmian e oggi in base a queste analisi che si stanno facendo sull'impatto della fibra ottica il titolo ha guadagnato il 6%. Migliori allora, di negativo oggi ci sono Campari -1,60%, Unipolsai -1,5%, Azimut -0,50%, migliori e peggiori chiaramente RCS e tutte le banche, e poi Seat Pagine Gialle +6,90%, primi sui motori +6,50%, e il fronte opposto invece vede Sintesi -8,20%, Club -6%, le Bastoggi -4,40%. Grazie Guido Maurino, ma noi restiamo in tema di borsa per parlare della Rizzoli Corriere della Sera e dell'operazione lanciata venerdì scorso a mercato chiuso da Urbano Cairo attraverso la Cairo Communications. Allora sì, dicevamo dell'operazione di Urbano Cairo che ha chiarito oggi non è un'opera ostile, infatti è un'offerta volontaria di scambio, voglio tenere dentro i soci, la società è valutata con questa offerta 770 milioni di euro, levando i 90 milioni della Libri fa quasi 700 milioni di euro, è un'operazione di mercato molto aperta e poi ha detto Cairo rispondendo alle affermazioni di Beppe Grillo, io invece ai giornali ci credo ancora. Antonella Olivieri, buonasera del Sole 24 Ore, buonasera Antonella. Intanto, buonasera. Non sfugge a nessuno che questa operazione arriva a praticamente un mese di distanza dalla fusione tra il Gruppo Espresso e il Gruppo Itedi, cioè la stampa di Torino nel secolo XIX di Genova. Il mercato si è entusiasmato, ma sostanzialmente da quello che tu valuti ha portato il livello di RCS all'offerta di Cairo? Esattamente, sì, proprio così. Tra l'altro c'è un collegamento sicuro, cioè, tra RCS e l'operazione Espresso la stampa. Praticamente è venuto meno in RCS il primo azionista che è la Fiat con l'uscita prospettica dalla certo. RCS per concentrarsi invece sull'operazione che metterà insieme praticamente Repubblica e la stampa, non come testate ma come gruppo. E dunque c'è una questione, come dicevi bene tu, effettivamente per ora il mercato si è allineato a quello che è stato annunciato, però l'offerta è un po' strana dal punto di vista di come è stata strutturata, perché non è un OPS del genere finalizzato a una fusione. In pratica Cairo propone di rilevare i titoli RCS consegnando i suoi, ma di fatto lo schema è lui controllerebbe personalmente al 40% il suo gruppo, il quale gruppo controllerebbe almeno il 50% di RCS. È un po' bizzarra, diciamo, come struttura. Probabilmente avrebbe molto più senso industriale una fusione, anche perché ci sono anche le riviste in RCS e in caro editore ci sono le riviste. Ci sarebbe la possibilità di fare sinergie, non soltanto taglio di costi, ma magari anche di altro tipo, tipo sinergie di ricavi oppure risparmiare anche sulla struttura. E perché, secondo quello che tu hai capito, non si è preferita, non si è scelta questa ipotesi? Io penso perché Cairo è un one man company, nel senso che quando ha quotato la sua società ormai molti anni fa, ne ha messo proprio un fettinino sul mercato, nel senso che ancora oggi la controlla al 73%. Quindi probabilmente per lui è molto pesante pensare a una diluizione già sotto il 51%, e evidentemente facendo una fusione si diluirebbe ancora di più. Però a un certo punto non capisco. Però se a un certo punto, 40, se capisco il tuo ragionamento, da un punto di vista manageriale dovrebbe essere anche una strada, non dico obbligata, ma quasi, perché le famose sinergie, cioè quando tu fai delle operazioni di aggregazione, vai a risparmiare su doppione, la dico male, ma la dico, la dico tutta. Beh, le famose sinergie le puoi realizzare solo se tu riesci, diciamo, poi a integrare anche da un punto di vista amministrativo e societario i due gruppi, no? Sì, perché di fatto sarebbe come dire che chi accettasse questo tipo di offerta accetta di avere come amministratore delegato Cairo, che va lì a tagliare i costi. Però dico, perché non considerare invece la parte dell'editore? In fin dei conti il suo gruppo è stato ben gestito, non è che si possa dire persino sì, la devo dire che la notizia positiva, vedo anche un commento di poco fa del presidente designato di Confindustria, Vincenzo Boccia, che plaude all'iniziativa e tra l'altro opera di straordinaria importanza per l'editoria del paese, a prescindere da ciò che succederà. In effetti è una seconda operazione, in maniera ancora più importante, che valorizza la tanto bistrattata editoria italiana e carta stampata. Quello va detto come elemento positivo, cioè ha ragione Cano nel dire, beh, io ancora ci credo. Sì, lui ci crede, nel senso veramente, lui ancora, almeno quando ho avuto modo di parlare con lui per diciamo interviste di lavoro eccetera, ho avuto l'impressione che sia uno dei pochi editori che ancora crede che la carta nel senso di carta abbia ancora un valore. Comunque tu dicevi perché no, dico il vantaggio, no il vantaggio positivo di questa operazione e si è visto poi non solo sul titolo chiaramente Rizzoli, ma anche sul titolo Class Editori, che ha guadagnato alla fine il quarto miglior titolo al 9%, il titolo Espresso 6,40 e Sole 24 Ore più 5,40. Quello che dicevo e commentavo in chiusura è che è vero che bisogna capire esattamente dove andrà a parare la formulazione, ma almeno ha risvegliato un settore che sicuramente non era tra i più sexy, ecco, mettiamola così. Assolutamente, diciamo che c'è, probabilmente adesso ci saranno delle reazioni a catena, probabilmente questa non è la versione definitiva, però sicuramente non rimarrà tutto come era prima, quindi... E questo va, di questo va dato atto a Urbano Cairo. Grazie Antonio Olivieri, traffico, grazie. Poi parliamo del fondo a garanzia degli aumenti di capitale delle banche e delle loro sofferenze. Focus Economia. Minuti e dai movimenti nell'editoria passiamo invece al fondo per le banche. È iniziato in questi istanti l'incontro al Ministero dell'Economia, quindi con 20 minuti di ritardo, tra appunto il ministro e i vertici delle grandi banche italiane, compagnie di assicurazioni e altri investitori istituzionali. Sono presenti anche rappresentanti della Banca d'Italia, della Cassa Depositi e Prestiti. Renzi, l'abbiamo sentito, ha detto arrivando al Vinitaly questa mattina a Verona, è la settimana giusta per il fondo, per il piano banche, e da questo punto di vista sappiamo che il governo promuove l'iniziativa, ma sullo sfondo, con il supporto della Cassa Depositi e Prestiti. Il vero, cosa serve questo fondo? Serve per dare delle garanzie alle banche che dovranno fare aumenti di capitale, perché se vogliono fondersi e se devono correggere il valore delle sofferenze bancarie, sono obbligate dalla Banca Centrale Europea ad aumentare il capitale. E anche e soprattutto servirà per le banche che devono impacchettare le sofferenze, cioè i crediti non più esigibili, e collocarle sul mercato. Perché serve? Perché se hai la garanzia di un fondo privato puoi spuntare dei prezzi migliori. La spiego male, ma questo è il significato. L'unica cosa che non può fare sto fondo è cadere sotto le bacchettate dell'Unione Europea con l'accusa di aiuti di Stato. Marco Ferrando, è più o meno così? O correggimi, buonasera, Sole 24 Ore. Sì, buonasera, sì, tutto corretto, nel senso che il fondo sarà privato, nel senso che uno dei punti ancora da capire è l'eventuale partecipazione della Cassa Depositi e Prestiti, che comunque sarà marginale, quindi evidentemente né l'Unione Europea, che come sappiamo soprattutto in tema di banche ha avuto molto da ridire sulle iniziative dell'Italia, potrà in questo caso eccepire la presenza di aiuto di Stato, né evidentemente la Banca Centrale Europea. Ecco, chi metterà i soldi per questo fondo? Abbiamo visto la dotazione minima sui 7 miliardi, era circolata negli ultimi giorni. Sì, girano molte stime. Dalle ultimissime informazioni, come dicevi tu, oggi dovrebbe essere il giorno giusto, quindi non solo la settimana giusta, come diceva Renzi, ma oggi dovrebbe essere appunto il giorno dell'accordo, e raffica di incontri a partire da questa mattina al MEF. Ebbene, le ultime stime dicono che si partirà con 4 miliardi che dovrebbero essere versati in larga parte dalle grandi banche, quindi Unicredit, Intesa e un po' meno UBI, quindi le assicurazioni che sarebbero state incontrate nel primo pomeriggio, e poi le altre banche, quindi tutte le altre prime 10 banche. Si va, c'è BPER, il BPM che, essendo impegnata nella fusione col banco, non si sa. Ci saranno sicuramente le estere presenti in Italia, penso ad esempio a BNL, penso a Cariparma. Punto interrogativo su Mediobanca, che come sappiamo da tempo anche porta avanti progetti di altra fattura, di altra logica su questo tema NPL, quindi da capire se ci sarà. E poi sicuramente le fondazioni, che dovrebbero metterci mezzo miliardo. Totale 4, perlomeno come partenza. Il fondo potrà indebitarsi, quindi dai 4 verosimilmente si potrà salire a 6-7 con la leva. Allora, per quello che riguarda invece l'operatività, tu già la chiarivi, permettere alle banche, poi quelle che fanno l'aumento di capitale è ancora difficile capire il numero esatto, ma tutte le altre, che sappiamo che tutte le banche italiane hanno questo problema enorme delle sofferenze, deve permettere che cosa? Non è che compri lui le sofferenze. Cosa vuol dire fare la garanzia su una sofferenza quando la collochi? Sì, diciamo che sia l'idea è che il fondo abbia due comparti. Un comparto interverrà sugli aumenti di capitale, l'altro comparto interverrà sulle cartolarizzazioni. Dobbiamo fare un passo indietro. 2 mesi fa, era febbraio, l'Italia ha lanciato le garanzie pubbliche sulle cartolarizzazioni. Garanzie pubbliche che però possono coprire soltanto le tranche senior dei titoli che verranno emessi per coprire le operazioni. Restano evidentemente da piazzare ai prezzi più alti le tranche junior, e questo fondo dovrebbe acquistare quelle tranche, evidentemente abbassando i prezzi, perché l'idea di fondo, sia sugli aumenti di capitale che sugli NPL, che ad oggi il mercato, soprattutto negli ultimi 4 mesi, sottovaluta troppo il valore sia appunto dei titoli bancari che dei titoli collegati agli NPL. In sostanza, la presenza e l'azione di questo fondo dovrebbe consentire di riportare il valore, i prezzi su valori appunto considerati più vicini al vero. E staremo a vedere appunto se si arriverà poi a un valore più reale, perché poi sappiamo che il terrore delle banche è di finire in mano i cosiddetti fondi avvoltoio. Marco, cioè sì. Chi andrà a dire: guarda, tu se vuoi collocare quel credito che hai che vale 100 euro e tu ce l'hai in bilancio a 60 euro, siccome per me non riuscirai mai a ottenere, me lo cedi a 20, io cerco di spuntare il margine più alto con il debitore. Invece le banche hanno paura di questa cosa, perché se lasciate sole, chiaramente poi se tu lo cedi a 20 euro ti tocca svalutare quel credito da 60 euro a 20 euro, Marco. E questo apre evidentemente un gap di capitale. Certo. Non è un caso probabilmente che l'accelerazione di questo progetto, da cui stando le ultimissime informazioni si sta lavorando da 3-4 settimane, ecco, da farlo accelerare probabilmente c'è stata l'offerta di 2 settimane fa di Apollo su Carige. Sì, perché l'ha fatto accelerare? Perché il fondo Apollo, che è un fondo così come dicevi tu, avvoltoio, ha proposto sia prima di acquistare un prezzo molto basso, il famoso 17%, che è stato anche il prezzo di trasferimento dei crediti delle quattro banche salvate, sia di coprire di fatto il buco di capitale che si sarebbe andato a creare. Evidentemente un avvertimento del tipo: noi grandi fondi che abbiamo tanti soldi possiamo possiamo fare il prezzo e quindi comprarci le banche al prezzo che vogliamo. Eh sì, e quindi diventa un elemento, diciamo, tutto a livello anche governativo di sistema, perché non è la singola banca, che se questo è l'approccio, tu alla fine, altro che prima con Telecom, con i francesi, qui rischi di avere un problema sul controllo, diciamo, delle banche italiane. Grazie Marco Ferrando, vedremo, la riunione è appena iniziata, ma volevamo darvi l'ultimo aggiornamento. Grazie Marco Ferrando, dicevo, da Sebastiano Berigioni è veramente tutto, grazie a Barbara Bianchi per l'assistenza qui in studio, a Davide Cioccia per l'assistenza in bassa frequenza e a Filippo Reggi per l'assistenza in regia. Noi torniamo in diretta come Focus Economia domani, sempre da Vinitaly, per degli OE9 C, o meglio D3, Focus Economia, ma anche tanti altri programmi di questa radio. Radio 24, la passione si sente.